Rock FM. Rock FM, Milano, Italy. 8:02. Oh mamma, che ritardo! Facciamo splendere il sole in questo venerdì 22 febbraio 2008, l'anno della svolta. Buona giornata a voi fortunelli che vi svegliate ora. Via le caccole! Dagli occhi, eh? Let the sunshine. Saluti ad Ale, da Lucca. Saluti ad Ale, ai tassisti. Oggi ce ne sono più di un paio, eh? Gli autisti ATM Milano presenti. Ciao Beppe con la carogna. Abbiamo l'amico che ha inventato Fraziollo ma non mollo, che è contento che lo sente citato dagli altri ascoltatori. Sì, è segno che è apprezzato. Puntata caratterizzata da un paio di cose. A, ci ascoltano un sacco di scout. B, il tormentone di oggi, Opera Italia. Tassinaro 3668, Mario! Sai che non so risponderti alla domanda, chiedi a Mox che lui sa tutto. A mezzogiorno te lo dice lui. Andate avanti così che è bello avervi conosciuto, carino. Qua mi consigliano di legare le dita col nastro adesivo per fare il saluto scout. Ma non è quello il problema è che l'indice non va su, cioè proprio lo devo spezzare per farlo andare su. Grazie Lore comunque. Ciao Tina. Ciao Ro. The sunshine. Peretti è meglio della house, scrive F. Va bene, una seconda ora da leccarsi i baffi. Dobbiamo connetterci con Tino Tassista a Milano. Oggi è l'ultimo giorno della moda Milano, della settimana della moda. Sarà disperato. Più tardi abbiamo i Beatles in italiano, insomma ce n'è di robaccia da fare. Restate con noi di Pane, Burro e Rock and Roll. Anche quest'oggi iniziamo la seconda ora col brano targato Easy Rider, Banco del Mutuo Soccorso, Non mi rompete, 1970, Italia. Grazie Mox. Non mi svegliate, ve ne prego, ma lasciate che io dorma questo sonno. C'è ancora tempo per il giorno quando gli occhi si bevono di pianto, i miei occhi di pianto. Non credo che è lì che ravana nei suoi foglietti, tra i quali c'è anche il classico foglietto stropicciato rosa, sì, nel quale Frick segna le poesie. Sì, che vorrei dedicare a tutti i nati di quest'oggi, 22 febbraio. Che pensiero gentile. Ti sorprende di soppiatto, variopinto e rarefatto. A me piace così, anche bislacco, questa specie d'almanacco. Tutto matto. L'ho fregata, c'era la coda. Tutto matto, l'almanacco, tutto matto. Speciale compleanni del giorno. Che genio, maestro. Allora, 22 febbraio del 1788. Lo so. Chi? Lo so, nacque... Chi? Arthur Schopenhauer. Ah, filosofo tedesco. Grande filosofo tedesco. Vogliamo approfondire qualcuno dei trattati di Schopenhauer adesso o proseguiamo? Ma non lo so, direi di passare senz'altro alla successiva che riguarda il 1900. Ah, c'è un segno lì, come si chiama il segno sulla N? Non è una dieresi. Ciglia, là, no. Ah, Isaac, diccelo se lo sai. La ciglia, vai. È una cosa. Non so come si chiama, ma si legge gn. Ah, ho capito, allora lo leggo io. 1900 nasceva Louis Buñuel. L'ho detto bene. Buñuel. Io lo chiamerei meglio. Regista mitico, Le Chien Andalou. Ah. Cane andaluso. Il taglio dell'occhio, se lo ricordo. Oh, terribile, terribile. L'angelo sterminatore. E infine il fascino discreto della borghesia. È un genio. Era proprio Eugenio. No, il no, suo un secondo, genio. No. No, lui si chiamava scusi, e basta. Così mi sono confuso. Una battuta veramente carina, caro Frick, degna del Mago Forrest, al quale facciamo grande gli auguri di buon compleanno perché nasceva nel 61. Comico, showman e conduttore televisivo italiano. Complimenti, Mago Forrest, noi siamo suoi ammiratori. Venga a trovarci e le consegneremo il premio Pane, Burro e Rock and Roll. Ovvero? È nuova questa del premio. Ah sì, il premio, quello che avevamo stabilito, un panetto di burro, un po' di pane e tanto rock and roll. Tutti i dischi degli Schiantos e dei Pei. Chiudiamo con una doppietta che piacerà molto al nostro Mike Buongiorno, perché è una classica doppietta da pornodire. Al nostro Mike Buongiorno, non si offenda, Mike Buongiorno originale. Qui si allude. Nasceva nel 1982 Jenna Hayes, questa la conosco. Anche questa qui, Isacco la conosce? Pornografica statunitense. Lei ha per caso uno scaffale tutto pieno? Come fa a saperlo? Lo sapevo. Lei mi anticipa. Ce n'è un'altra statunitense, sempre un anno dopo, nell'83, nasceva Penny Flame. Penny Flame, sì, che nel nome vuole in qualche modo ricordare Penny Lane. Penny Flame, in my eyes. No, ma i Beatles non la conoscevano, Penny Flame. Non si sa. Dopo, nell'83. Non si sa però. Dice? Adesso me ne occupo io, personalmente. Approfondisco l'argomento. Approfondiamo. Anzi, approfondo. Pane, burro, rock and roll. Pane, burro, rock and roll. Mazza che figata sto programma, raga! My dear, I like my toast on one side. You can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue, a walking cane here at my side. Whoa, I'm an alien, I'm a legal alien, I'm an alien. Englishman in New York, lui ovviamente è Sting. Non occupiamoci dell'Inghilterra, occupiamoci della Milano buona, della Milano che ci ospita. Abbiamo in collegamento un uomo che sarà distrutto oggi. Tino? Oh, ditemi. cosa c'è? Povera Italia. Povera Italia. Il nostro tassista di riferimento, la settimana della moda milanese vissuta col model watching, ma finisce oggi? Praticamente sì, le cose importanti finiscono oggi, domani ci sono le briciole. Allora Tino, è giorno di bilancio, quante esatto. Belle ragazze sono salite sul tuo taxi? Zero, io sono di nicchia. No, come zero? Si sono prese la macchina loro? Sì, no, qui... di modelle zero, belle ragazze qualcuna sì. Ma in generale quelle salgono sempre? Sì. Particolarmente in questi giorni, perché comunque. Comunque gira la bella ragazza. Gira la bella gente. Gira la gente che conta. Guarda. Prima di fare le segnalazioni di oggi, è tutta la settimana che mi scrivono. C'è qualcuno che mi chiede se puoi dire che taxi hai, perché vorrebbe smettere di salire su tutti i taxi di Milano e chiedere se è Tino. Allora, io ci dico 3964. 3964, sì. Se volete chiedere Tino, ma si può chiedere anche. Cioè, quando io chiedo. Volevo soltanto salutare allora il collega 3668 che ti ha scritto prima. Esatto, ma lo conosci? No, però magari ci vediamo in giro, facciamo due chiacchiere. Gemellaggio di tassisti, esatto. Che ascoltano Rock FM, mi piace un sacco. Ma se uno chiede il tuo numero, arrivi tu ovunque a Milano? No, purtroppo no, okay. È un po' più complicato di così. Okay. Però se chiamano te e tu gli dai il mio numero, lo farò prendere volentieri. Vabbè, adesso, perdonami. È un po' complicato. Mettermi a girarti i clienti dalla radio, anche no. Cioè, potrei farlo. Fosse un momento di crisi, lo facciamo, Tino, sappi. Sarebbe bellissimo, ma purtroppo non si può neanche fare altre cose. Allora, le modelle di quest'oggi, dove le troviamo? Allora, oggi le modelle le trovate principalmente, direi, alla fiera. Alla fiera a Milano. Città. Okay, io di solito lì ci passo verso le 6:15. Ariel, credo che stiano arrivando i miei clienti. Arriva il cliente? Sì, credo di sì, c'è anche una bellissima. Ah, no. Peccato, perché c'è una bellissima bambina che aveva avuto 5 anni, così occhio. Di no, per favore. Ah, ecco. No, farla parlare, voglio dire. Ah, ok. Ma Ariel rientra in te. Allora, perché tu stai aspettando un cliente in questo momento. Certo, esatto. Modelle di oggi, fiera. Allora, fiera, ingresso, fiera città, ingresso Gattamelata. Ok. Il grosso è tutto lì, quindi possono. Sì, potete andare lì già da adesso, 8:30, 9:15. Sì. E stare a vedere davanti e indietro fino alle 2:30 del pomeriggio, tranquillamente. E il model watching, lo sport di pane e burro. Consiglio una cosa leggera così, una bella mattinata. Ma sì, tanto per vedere delle belle ragazze, insomma, o dei bei ragazzi. Esatto. La giornata prende sempre un'altra piega. Ma esatto, tutta un'altra cosa. Tino, a posto. Sì. Ci sentiremo da settimana prossima, quindi torna alla vita normale. Oh. Esatto, purtroppo sì. Facciamocene una ragione. Ma vabbè, tanto ripeto, noi siamo di nicchia, ce la caviamo. Esatto, fuori Italia. Ciao Tino. Esatto, ciao, un abbraccio a tutti. Ciao. Attenzione, perché avevo una sorpresa, però dovrebbe essere qui. Ecco. Me l'avevano segnalato via SMS. Beh, se parlate di model watching, ci starebbe una model dei Kraftwerk. Del chi? Altro che Easy Rider. è che si può prendere la saggezza popolare, appallottolarla e gettarla nel cestino. No, sarebbe semplicistico e sbagliato. E Pane, Burro e Rock and Roll direbbe: non ci sto. Rivalutiamo i dialetti meravigliosi, coloriti del nostro bel paese e affondiamo l'italiano. Ma l'italiano che televisivo. Ci ha rotto le scatole. Standardizzato. Torniamo a collegarci con la Liguria. Finale ligure, dovrebbe essere il dottor Bonci pronto per la ennesima lezione di savonese estremo. Estremo. Oh, buongiorno. No, era l'altro, sbagliato, scusi. Eccolo lì. Abbiamo un po' di confusione. Perché... confusione con tutti i dialetti, dottor Bonci, mi scusi. Noi ci alleniamo con tutti. Buona giornata. Buona giornata a voi. Com'era Pan Bitin i rock and roll? Pan Bitiru. Bitiru. Bitiru e rock and roll. Anche questa espressione vagamente sarda. Bitiru. Sarda c'è un po' dappertutto. Queste une, i dialetti ci sono sempre. Ma infatti. Dottor Bonci, con cosa proseguiamo le lezioni di lì? Questa volta ho scelto un modo di dire che vi permetterà anche di allenarvi a dire cucù senza dover ripetere solo cucù. E la frase è questa, un presente in molti penso dialetti. Sì. I son tutti bulici, cucù di altri. Cucù di altri. Sono allora tutti bulici. Vado a intuizione. Bulici potrebbero essere i bucaioli fiorentini? Bulici esatto. Sono, sì, penso di sì. Perché sono preparato su queste cose. Bravo, bravo. Sì. Quelli che vanno... effettivamente è anche molto facile essere, insomma... bulici appunto, froci col sedere degli eccola, altri. Eccola, che è la traduzione. Sì. Comoda, comoda. Classico modo di dire. Si soffre poco. Tutti sì, ricchioni comoda. Col culo degli altri. Esattamente. Ecco, perfetto, il significato... Tengo a precisare una cosa, se mi permettete. Sì. A fare un piccolo distinguo. Quello che parlo io non è dialetto genovese, ma savonese, che è un po' diverso dal genovese in alcune, un po' nella pronuncia un po' più stretta. Usiamo la R in alcune parole che il genovese l'ha perso, tipo... Alura, noi diciamo, loro dicono alua per dire allora, insomma, okay. Ci sono piccole differenze. Okay, ah, il genovese ha perso la R. Sì. Persa per interessante. Interessantissimo. Ma la frase di oggi, torniamo, mi perdoni a bomba. Tutti bulici, cucù di altri. Tutti bulici, cucù di altri. No, cucù. La prima è dolce, la seconda chiusa, francese. Cucù. Così potete allenarvi senza dire sempre solo su queste due. Esatto. Tutti bulici, cucù di altri. Sì. Grazie per la perla di saggezza popolare, dottor Bocci. Alla prossima. Grazie la dobbiamo a voi, salutare con rammarico. Ci diceva, scusi, un po' ripetere? Grazie a voi e grazie a Pambi Tiro e Rock and Roll. Ecco. Un abbraccione, grazie, maestro. Grazie. Pare burro rock and roll, pare burro rock and roll. Mazza che ci cade questo programma, raga. Maestro Antoni, se io le dico il re del rock and roll, a chi pensa? A lui, al bacino. Proprio lui. Elvis the Pelvis. In the Memphis, Elvis Presley. The king of rock and roll. Quante ne ha combinate il re del rock and roll? Capita. Ma cosa? Guardi, sembrava un così bravo e buon ragazzo, e invece, ragazzo alla bolognese. E un buon ragazzuolo. Pensi che il primo disco lo registrò per il compleanno della mamma. Sì. E invece andiamo a scoprire una curiosità legata al re del rock and roll Elvis Presley, che forse non vi aspettavate, perché la domanda del test attitudinale di quest'oggi è questa: Elvis Presley è stato una leggenda del rock, ma non si può dire che per lui l'igiene veniva al primo posto. Non amava infatti farsi la doccia. Priscilla Presley, moglie di Elvis, disgustata dalla pulizia sommaria del marito, adottò un sistema particolare. Quale? Ipotesi A: riforniva continuamente Graceland, la loro casa, con salviettine igieniche profumate con le quali Elvis potesse comodamente lavarsi. Oppure ipotesi B: la signora Presley comprò un'intera partita di deodoranti per la casa, Graceland appunto, per porre rimedio all'odore un po' forte, all'affrore del marito. Oppure infine ipotesi C: la moglie Priscilla, la signora Presley, fu costretta a montare una doccia speciale a Graceland, con 3 spruzzatori, uno per la testa, uno per il torace e uno per le gambe, cioè le estremità inferiori. Ditelo subito, A, B o C, qual è la soluzione esatta? La soluzione giusta noi ve la diamo tra poco, e cioè la risposta esatta poco dopo. Dimmi Frigo, ma se facciamo la band poi dobbiamo andare in tournée. Certo, io non vedo l'ora di andare in tour. Ci pensi? Sesso, droga e rock and roll. Soprattutto sesso e droga sbafo. Ma scusa Rogna, la roba buona ce la danno già qua gratis gli umani. Io coglierei l'occasione del tour per parlare dei problemi che affliggono noi topi da laboratorio, affinché tutto il mondo ne venga a conoscenza. Maledetti umani, questa volta la pagheranno. Beh sì, è vero, in effetti la roba ce la danno già, però io voglio pagarla, come fanno le vere rockstar. Spacchiamo tutto, sex and drugs and rock and roll. I ratoni spaccano tutto. Sex and drugs and rock and roll, spacchiamo tutto. Prossimamente, Frigo e Rogna fanno la band. Il gruppo.